Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che ogni settimana racconta il mondo dal punto di vista di tutti gli animali. In questa puntata parleremo del business degli hamburger vegetali, del dramma della manipolazione genetica sui cani, degli effetti della caccia e di un illuminato ministro britannico. Non abbiamo prove che sia davvero così, ma è possibile che i Fridays for Future, le mobilitazioni giovanili in tutto il mondo che chiedono ai politici interventi contro il disastro climatico in corso, abbiano avuto un peso nel determinare la febbre da hamburger vegan che sta investendo alcune grandi catene commerciali, oltre che il mondo della produzione. La notizia più importante in quest'ambito è il clamoroso boom in borsa a Wall Street di Beyond Meat, l'azienda statunitense che produce la cosiddetta carne senza carne, cioè un hamburger a base di proteine vegetali ma con lo stesso sapore e la stessa consistenza dell'hamburger tradizionale. Beyond Meat è un'azienda nata nel 2009, finanziata fra gli altri dalla star hollywoodiana Leonardo DiCaprio, ed era entrata a Wall Street con un prezzo di base di $25 per azione. Oggi siamo già a 140. Qualcuno evidentemente ha fiutato l'affare. Sembra che gli hamburger di Beyond Meat siano pressoché indistinguibili dagli altri e quindi gli investitori si aspettano di lucrare anche nel lungo periodo. Come dicono gli scienziati che studiano il clima, per rallentare il disastro ormai in corso è necessario ridurre drasticamente i consumi di carne e la non carne inventata da Beyond Meat potrebbe essere un'utile scorciatoia. Vista la resistenza delle grandi aziende, delle catene commerciali e anche della gente comune a cambiare modello alimentare, nonostante l'esempio, oggi molto conosciuto, di Greta Thunberg, l'attivista svedese, stella e iniziatrice dei Fridays for Future, che si nutre solo di cibi vegetali. La febbre dell'hamburger vegan ovviamente non lascia indifferente alcun colosso dell'industria alimentare. Ultima arrivata in ordine di tempo è la Nestlé, che ha presentato nei giorni scorsi la sua versione del burger vegano. Il responsabile dei prodotti culinari della Nestlé svizzera, Jérôme Bonvin, ha spiegato che le prospettive di mercato sembrano molto promettenti. Il mercato dei sostituti della carne, ha detto, è cresciuto negli ultimi 3 anni del 18% e la domanda di prodotti vegetariani e vegani continua ad aumentare. Anche il burger della Nestlé, secondo i portavoce della multinazionale, ha l'odore, l'aspetto e il sapore di un hamburger tradizionale. Quando è fresco e di colore rosa, una volta cotto si comporta come la carne, rosato all'interno con una crosta scura sulla superficie. La ricetta ovviamente è segreta. Si sa solo che la creazione di questo hamburger ha impegnato per oltre un anno ben 4 laboratori di ricerca. Vedremo se la Nestlé riuscirà a vincere la sfida con Beyond Burger, che intanto è stato scelto dai negozi McDonald's per un test di alcuni mesi in Canada. Burger King, a sua volta, sta già testando in 59 suoi negozi negli Stati Uniti un hamburger di propria produzione. Insomma, siamo solo agli inizi. La sfida della non carne è destinata a durare. C'è un popolo di consumatori considerati refrattari al cambiamento da soddisfare. Tutto deve sembrare come prima, affinché tutto cambi. Sembra essere questo il motto dell'industria. Vedremo quale sarà la reazione di chi gestisce allevamenti e macelli. Parlato di hamburger vegan ottenuti in modo che sembrino carne, ma i veri hamburger vegani sono tutt'altra cosa. Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore del libro Cucina regionale italiana vegana pubblicato da Newton Compton, ce ne dà una dimostrazione nel suo spazio etico gastronomico. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Si parla molto di questi nuovi burger vegetali a prova di onnivori. Personalmente non sento la necessità, dopo tanti anni, di assaggiare qualcosa che sappia di carne, sangue e tutto il resto. Non mi manca proprio quel sapore, al contrario, la sola idea mi disgusta. Questo però è solo il mio punto di vista, ma se questa novità avrà contribuito a salvare la vita anche di un solo animale, ne sarà valsa la pena. Io intanto vi do la ricetta dei miei burger 100% cruelty free. Gli ingredienti per 4 persone per i burger di legumi alla paprika affumicata sono 100 g di lenticchie essiccate, 100 g di carote lessate, uno spicchio di aglio, del prezzemolo, 400 g di champignon, una barba rossa cotta, mezza cipolla rossa, un cucchiaino di paprika affumicata, 2 cucchiai di olio extravergine, sale e pepe. Sciacquate le lenticchie e lasciatele in ammollo in abbondante acqua almeno per 2 ore, ma meglio se tutta la notte. Nel frattempo pulite i funghi e tagliateli a lamelle. Tritate l'aglio, il prezzemolo e fate rosolare qualche minuto in padella con l'olio extravergine. Aggiungete i funghi e lasciate cuocere fino a quando tutto il liquido sarà evaporato. Aggiustate di sale e pepe e lasciate intiepidire. A parte, sbucciate la cipolla e tagliatela a pezzetti. Scolate le lenticchie e macinatele con un mixer o un frullatore ad immersione a crudo, assieme ai funghi, le carote, la barbarossa, la cipolla e la paprika affumicata. Solo se necessario aggiungete poca acqua. Con le mani inumidite formate dei burger che sistemerete in una padella con un filo di olio ben caldo. Fate cuocere a fiamma bassa 15 minuti per lato col coperchio. A questo punto i vostri burger sono pronti. Serviteli al piatto o nel tipico panino, con salsa, insalata, pomodori o come vi suggerisce la fantasia. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Nei giorni scorsi su alcuni media nazionali è comparsa una notizia in arrivo dall'Australia. Wally Conron, 90 anni, considerato il capostipite del cosiddetto design dog, ha espresso in pubblico il suo rimorso per aver scatenato tempo addietro, creando nuove razze di cani, un mondo, così ha detto, di mostri alla Frankenstein. Il capolavoro, per così dire, di Conron è stato il Labradoodle, un cane ottenuto nel 1989 incrociando un Labrador e un barboncino standard, cosiddetto. L'intento aveva una qualche nobiltà, visto che si trattava di fornire un cane guida a una donna non vedente, il cui marito era allergico ai cani. In questo caso la componente Labrador era utile per avere un cane guida, la componente barboncino per il fatto di non perdere peli. Il Labradoodle si è poi diffuso rapidamente, in tutta l'Australia e altrove, con un prezzo pagato dagli animali altissimo. La maggior parte dei Labradoodle, ha detto Conron, è pazza o ha un problema ereditario. Per Conron è dunque il tempo del rimorso, e c'è da sperare che il suo ripensamento venga ascoltato da chi ancora si dedica a questa inquietante disciplina, il design dog, attraverso la manipolazione genetica, tesa a soddisfare per lo più esigenze estetiche, a scapito della salute degli animali. E questo è il tema di cui si occupa con la sua rubrica di storie vere Massimo Raviola, veterinario, autore del libro Che razza di bastardo. ultimately, who gives a fuck anyway? Excuse me. Mi chiamo Massimo Raviola, sono un medico veterinario di Torino, dove lavoro tutt'oggi, laureato nel 1991 all'università della mia città e master in bioetica sempre a Torino nel 2008. Pratico la professione ormai da 27 anni nella clinica veterinaria Europa. Ho scelto questo mestiere ovviamente per amore verso gli animali, all'inizio senza farmi troppe domande, poi con l'andare del tempo, osservando le patologie degli animali che visitavo e curavo, ho cominciato a sviluppare alcune riflessioni, su cui poi ho scritto anche un libro che si intitola Che razza di bastardo, acquistabile sia in libreria che sulle principali piattaforme online. Strano titolo, vero? Se volete contattarmi potete scrivermi a massimoraviola75@libero.it. Oggi vi racconto la storia di Rico. Rico è un bel cagnone ormai di 5 anni di età, ma la sua vita di cane normale ha cominciato a viverla solo un paio d'anni fa. Vi chiederete perché? Ora ve lo spiego. Rico è, come detto, un cane, uno di quei cani a cui noi umani piace dare un'etichetta, una marca, come gli oggetti di lusso. Lo definiamo un Labrador. Quando aveva circa 5 mesi, durante una delle sue passeggiate al parco, dopo una bella corsa, come fanno tutti i cuccioloni di quell'età, improvvisamente si è messo a zoppicare su una delle zampe posteriori. I proprietari hanno subito pensato ad una banale storta che si sarebbe risolta in pochi giorni con un po' di riposo, come è e dovrebbe essere normale in un cane sano di quell'età. Ma il dolore non passava, anzi aumentava, e a quel punto me lo portano per una visita. E partiamo con tutti gli accertamenti, comprese le radiografie per la valutazione dell'articolazione del bacino. La diagnosi è stata a quel punto tanto facile quanto drammatica. Una sentenza, displasia dell'anca bilaterale. Ma com'è possibile che il mio cucciolo abbia una cosa così grave? Mi avevano assicurato che era sano. Domanda più che legittima. La natura opera in modo da creare animali il più possibile sani, robusti e adatti a una vita lunga e completa. Ma in questo caso la natura è stata manipolata pesantemente dall'uomo, che con la selezione genetica ha cambiato le carte in tavola per ottenere un cane che di naturale avesse ormai ben poco, ma che rispondesse a canoni estetici decisi a tavolino per quella particolare razza. La risposta alla domanda, anche se difficile da comprendere ed accettare, sta tutta qui. La crescente selezione di razza ha fatto diventare sempre più frequente una malattia che in natura si presenta in maniera rara ed occasionale. Nei Labrador, purtroppo, la displasia dell'anca nel mondo medico viene ormai considerata, pensate un po', una caratteristica della razza. Rico è stato quindi inviato ad un chirurgo specialista e dopo ulteriori indagini che hanno confermato il problema, soprattutto la gravità del problema, ha proposto la soluzione, intervento chirurgico di protesi d'anca. Rico da allora ha subito 3 interventi, trascorrendo tutta la sua età giovanile tra ricoveri e convalescenze, tra farmaci e fisioterapie, con sofferenze inimmaginabili sua e dei suoi compagni umani. Mi piace a questo punto fare una considerazione. Curare Rico nel caso singolo è stata una scelta assolutamente corretta. Il danno ormai era fatto e ogni singolo cane merita le stesse cure e attenzioni che riserviamo agli altri membri della famiglia e della comunità umana. Ma spero che sia chiaro che questa è solo una riduzione del danno. L'intervento chirurgico su Rico, così come quelli su migliaia di altri cani, non impedirà ad altre migliaia e migliaia di cani di venire al mondo condannati alla displasia. Inoltre, va detto, non tutte le famiglie hanno la possibilità di accollarsi una spesa simile. Sapete quanto costa in media un intervento del genere, inclusi tutti gli accertamenti precedenti e le cure seguenti? Parliamo tranquillamente tra i 3 e i 5.000 euro, stando molto bassi. Se però, nella mia qualità di medico veterinario, mi chiedeste se esiste un modo per risolvere il problema della displasia dell'anca nei cani, la risposta che ho, in base alle mie esperienze e ai miei studi, è solo una. mettere in discussione tutto il mercato degli animali di razza, dal produttore, allevatore al consumatore. Passatemi il termine. Se amiamo gli animali e vogliamo il loro bene, dobbiamo fare la connessione. Molte persone che acquistano un cane di razza lo fanno in modo sincero e innocente, ingenuo forse, ma di certo non sanno che stanno alimentando un sistema che produce malattie, agonie, grosse spese e abbandoni e seri problemi organizzativi ed emotivi alle famiglie che accolgono queste piccole vittime della selezione razziale, che a tutti gli effetti ormai si concretizza in una selezione di malattie e tare genetiche a beneficio del reddito di qualcuno e della vanità di qualcun altro. Cominciamo a chiederci se è corretto imporre certe sofferenze ai nostri più fedeli amici solo perché la moda, il mercato ci impongono che i nostri animali di casa abbiano una determinata forma, un determinato colore, un certo tipo di pelo, o se il maltrattamento non inizi proprio da qui. In questo periodo, con la caccia aperta da poco, fioccano le notizie dal campo di battaglia. Abbiamo riferito nelle scorse puntate soprattutto delle vittime umane delle doppiette, persone ferite e anche uccise, secondo un bollettino di guerra che alla fine di ogni stagione conta decine e decine di persone. Stavolta la notizia che viene dalla Sardegna riguarda l'uccisione di un'aquila di Bonelli, una specie rarissima, con sole 40 coppie presenti in Sicilia e un progetto di reinserimento in Sardegna, progetto del quale faceva parte l'esemplare abbattuto. La LIPU, Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, ha commentato con sdegno la bruttissima notizia, un atto inqualificabile. Non è più possibile, ha affermato il presidente Aldo Werner, far finta di nulla. La situazione del bracconaggio in Italia è estremamente grave. Serve un segnale forte, fortissimo, da subito. È un segnale che la LIPU chiede al governo. La situazione, dice Werner, deve essere presa sul serio, dando piena e rapida attuazione al piano nazionale antibracconaggio e anche con un gesto forte, simbolico e concreto, come ad esempio la chiusura della caccia a tempo indeterminato in Sardegna. Nel frattempo, aggiunge ancora Werner, si attivino tutte le misure necessarie per impedire la vergogna nel XXI secolo di abbattere impunemente animali super protetti e in via di estinzione. Il messaggio della LIPU è rivolto al Premier Conte e al Ministro dell'Ambiente Costa. Vedremo se e come risponderanno. Sitting here wishing on the cement floor, just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and sell it to me? I miss your kiss and then I miss your head. And the letter in your writing doesn't mean you're not dead. Just run outside in the desert heat, make your dress all wet and send it to me. just wishing that I had just something you wore. So bloody your hands on a cactus tree. A proposito di caccia ancora, qualcosa sta accadendo in Abruzzo, dove il TAR ha disposto la riduzione del calendario venatorio, accogliendo un ricorso presentato in agosto da LNCD Animal Protection e WWF. Le due associazioni contestavano il mancato rispetto di alcuni vincoli, in particolare la mancata osservanza delle prescrizioni dell'ISPRA. Grazie alla decisione del TAR, per 18 specie il periodo venatorio è stato ridotto di oltre un mese rispetto alle intenzioni della regione. Inoltre, spiega l'avvocato Michele Pezzone, dell'ufficio legale di Animal Protection, è stato istituito il divieto di caccia in forma vagante oltre il 31 dicembre ed è stato ridotto rispettivamente di 20 e 30 giorni il periodo di caccia per beccaccia e beccaccino. In Abruzzo la guerra ai selvatici sarà quest'anno un po' meno pesante del solito. Per finire, una potenziale buona notizia dall'Inghilterra. Il ministro del benessere degli animali, Zach Goldsmith, ha annunciato che inizierà una consultazione che potrebbe, forse possiamo dire dovrebbe, sfociare nel divieto di importazione dei trofei di caccia. Un traffico legale cresciuto moltissimo. Si stima che siano arrivati nel Regno Unito dall'estero circa 20.000 trofei negli ultimi 10 anni. Frutto della caccia grossa compiuta da cittadini britannici in vari paesi del mondo. Leoni, tigri, leopardi, elefante, giraffe, rinoceronti sono spesso vittime di battute di caccia realizzate al fine sostanzialmente di scattare dei selfie con questi splendidi animali ormai abbattuti e poi di inviare i trofei in patria per mostrare la propria impresa. È molto positivo, ha detto Goldsmith, che ora siamo arrivati al punto in cui faremo una consultazione su un possibile divieto. Quando guardo le foto degli animali uccisi, ha aggiunto il ministro, mi fa male allo stomaco. Non riuscirò mai a capire perché qualcuno dovrebbe pagare per sparare a una giraffa. È una cosa folle da fare, soprattutto se si tratta di esemplari in via di estinzione. In via di estinzione o no, la redazione di Restiamo Animali si unisce al voltastomaco del ministro britannico e spera che il divieto arrivi presto e sia il preludio a ciò che veramente andrebbe fatto, vietare del tutto la caccia. We the street people talking. Yeah, we the people Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Zenone Sovilla, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. Un ringraziamento speciale questa settimana a Gianluca Masala, che ha curato la parte musicale. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.